prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Anche questa settimana proseguiamo l'approfondimento sul tema delle persone migranti, ospiti in diverse strutture del nostro territorio, pur tra tante difficoltà. Sentiamo il direttore della Caritas di Padova, Don Luca Facco. Premesso che ovviamente è un tema non semplice, per cui nessuno di noi ha la verità, è un contributo, è il nostro contributo maturato anche in questi anni. Comunque la premessa è che sicuramente stare dentro a un tema complesso e dare il nostro contributo è un onore, cioè affrontare questo tema è un onore, cioè vuol dire non ci vergogniamo, anzi per noi starci dentro e collaborare è importante, ecco, è una cosa veramente importante, è un obbligo, per noi è un obbligo morale, non possiamo non dare un nostro contributo, e anche una grande opportunità, perché l'incontro con sta comunque, pur nella fatica, nel disagio, nei problemi che ci sono, ma è anche una grande opportunità per noi, perché sono volontari che si stanno riattivando, comunità che si stanno ponendo domande, comunità che stanno anche interagendo col territorio. Insomma, io credo che sia anche da tanti punti di vista un'opportunità poter stare dentro a questi temi. Quindi prefettura, comuni che è capace di fare questo, si chiede, poi le cooperative è il loro mestiere, il loro lavoro, è la loro professionalità, sono chiamate a fare bene il loro lavoro, vengono pagate, è il minimo che uno che fa un lavoro venga pagato, quindi non è nessun problema che venga pagato, l'importante è che, come tutti noi, chi viene pagato per un lavoro lo faccia bene. Quindi l'importante è che ogni cooperativa faccia bene il proprio lavoro, e qui ci vuole una professionalità, una competenza che noi Chiesa non abbiamo, perché ci vuole anche una professionalità. Noi siamo tutta su base volontaria ed è il nostro target, e noi resteremo volontari, perché tutti i volontari nelle parrocchie è tutto volontariato e tale deve restare. Insomma, noi non vogliamo snaturare la nostra missione. Invece l'importanza poi che anche il privato sociale, cioè le associazioni e le parrocchie collaborino. Qual è il ruolo che fino ad ora noi abbiamo tenuto e vogliamo mantenere? Perché è nella nostra identità. Innanzitutto il valore formativo, cioè quello che noi possiamo fare è continuare a fare sensibilizzazione delle comunità, dei territori. Adesso vi darò un po' di numeri del lavoro, un lavoro discreto, silenzioso, che non fa notizia, ma per noi fondamentale, perché è importante andare nei territori, parlare con le persone, ascoltare le loro paure. Noi abbiamo fatto un sacco di incontri pubblici dove abbiamo ascoltato le domande, i dubbi, le paure. Ma se non lo facciamo noi, chi fa questo lavoro di mediazione, di ascolto anche della cittadinanza, soprattutto attraverso anche gli organismi di comunione che la Chiesa ha? E l'altro nostro impegno è quello che facciamo, tutto quello che non fanno le cooperative. Le cooperative fanno tutti i servizi alla persona, e invece noi facciamo che cosa? Attiviamo il volontariato, l'amicizia, la relazione tra il territorio e i beneficiari, gli ospiti, in modo che avvenga una relazione, un incontro. E poi vi racconterò alcune iniziative che molte parrocchie, ma soprattutto io do voce, in realtà ci sono parrocchie, istituzioni, religiosi, religiose, che lo stanno facendo. Per cui ecco, questa era la premessa del patto, cioè se ognuno facesse la sua parte, probabilmente questa situazione da straordinaria diventerebbe ordinaria, perché è questo che in realtà dovremmo arrivare, che in teoria questa non fa più notizia, cioè dovremmo, paradossalmente, mi dispiace per voi, ma in teoria non dovrebbe far più notizia questa cosa qui, perché è così strutturale, così che andrà avanti nel tempo, perché non sarà quest'anno, ci sarà per anni. Quindi siccome è per anni e vorremmo che non facesse più notizia, perché il territorio in maniera responsabile assorbe e riesce a dare delle risposte, e si riesce a fare dei passi in avanti. fatta questa premessa, quello che stiamo osservando, io do voce a tante realtà, ma poi per fortuna ci sono chi vive nel territorio che vi racconta. Attualmente noi abbiamo una quarantina di parrocchie che sono impegnate in maniera diretta e indiretta nell'accoglienza. Diretta vuol dire parrocchie che o hanno messo a disposizione locali a norma, perché devono essere a norma, idonei, se li avevano li hanno messi a disposizione, oppure parrocchie che si sono attivate per cercare dei privati che mettessero a disposizione degli appartamenti, per cui le parrocchie si sono attivate per cercare tra i privati, e terzo, molte parrocchie che, non avendo locali in prima battuta, però si sono messi a collaborare, come vi dicevo, con le cooperative che già operano nel territorio. Esempi: Progetto Cleopa, una parrocchia attiva ed è arrivata ad coinvolgere 50 volontari per aumentare le ore di percorso di italiano, ma come? Non in aula facendo la lezione, ma creando a due, incontrano un profugo e vanno a camminare per Padova, vanno a fare passeggiate, e in maniera, come dire, molto pragmatica, pratica, conversazione. Una parrocchia, anche questa è pubblica perché l'abbiamo pubblicata, di Salboro, che ha attivato la bottega degli apprendisti, per cui attivano tutto un volontariato per insegnare piccoli lavori, proprio apprendisti a questi ragazzi, per cui volontari in pensione che avevano una professionalità, una competenza, al posto di tenerla in congelatore l'hanno tirata fuori e stanno insegnando e si sono messi a disposizione per fare questa esperienza. Dopo alcune parrocchie li coinvolgono nella messa la domenica, abbiamo alcuni che o leggono il Vangelo in italiano o leggono il Vangelo in inglese, alcuni ex missionari che si rendono disponibili a mediare l'incontro con la comunità la domenica. Alcuni volontari sono stati coinvolti nella Caritas parrocchiale per la distribuzione di generi alimentari, alcuni sono stati coinvolti come volontari all'interno della sagra parrocchiale, proprio nel fare anche lavori molto semplici, manuali, come fanno tutti i volontari delle parrocchie. Alcune parrocchie li hanno invitati a pranzo alla domenica, a uno li invitano a pranzare insieme con la famiglia. Alcune parrocchie hanno creato dei contatti fra questi ragazzi, che sono tutti dai 20 ai 25 anni, vuol dire giovani, anche con i gruppi giovani locali. Ci sono stati degli incontri tra gli adolescenti della parrocchia e i giovani della parrocchia per uno scambio di esperienze di vita. Una parrocchia l'ha inserito uno all'interno della banda parrocchiale. Alcune parrocchie stanno mettendo a disposizione gli spazi per il corso di italiano all'interno non della cooperativa, ma all'interno della parrocchia, oppure mettono a disposizione gli impianti sportivi perché ci sia la possibilità di occupare il tempo libero. Ecco, quello che noi possiamo intercettare è il tema del tempo libero. Cioè, questi ragazzi hanno tanto tempo. Il problema molto spesso è che cosa far fare durante il giorno. Attraverso le microaccoglienze noi possiamo intercettare quel bisogno e possiamo mettere a disposizione le nostre strutture o le competenze che abbiamo attraverso il volontariato. Queste alcune esperienze concrete raccontate da Don Luca Facco, direttore della Caritas di Padova. Nelle prossime puntate altre esperienze concrete di accoglienza. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.